arriva al rosso, si ferma sul giallo. Ci hai fatto partire la registrazione? Sì. C'è una frase che dico ogni registrazione dalla prima. Registrazione partuta. Partito dalla prima volta. Yeah.